Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, una nuova poesia del poeta Antonio Lucignano, dal titolo L'istante prima. Il cielo pare schiudersi, concedersi ai graffi dei lampi e al ruggir dei tuoni, pochi attimi e poi tornare a stringersi, contorcersi verso grigi oblii e profondità. Sulla vetta attende nuda la memoria del nostro futuro, sconvolta dal desiderio e dalle passioni dei venti. I sogni le rigano il viso, fiumi su letti di cicatrici e speranze. Gli altari abbandonati, le chiese sconsacrate della gioventù accolgono calici ed ebbrezze dimenticate negli anfratti polverosi del tempo. E tu e noi, coi volti concessi agli sconquassi, a respirare insieme, mano nella mano, l'istante prima.